I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. This English is very good. Sì, è un altro che ridere, ma ci sarebbe da piangere. Ma lui andava, si sparava ste uscite, tornava, se la spacciava, che diceva che belli erano amiconi. Bush lo prendeva per il culo tranquillo così, davanti ai giornalisti. Che tristezza, cazzo, cioè. Che tristezza.